Il mago di Oz. Tanto tempo fa, nelle praterie della città del Kansas, viveva una bellissima bambina, Dorothy. Giocava con il suo amico, un cucciolo chiamato Toto. Un bel giorno, quando Dorothy e Toto stavano giocando nel loro giardino, Dorothy vide un grande ciclone provenire dalla città. Toto, entriamo in casa, svelto! Quando Dorothy e Toto entrarono in casa, il potente ciclone sollevò la casa e li portò in un luogo lontano da Kansas City. La piccola Dorothy era impaurita. Quando la tempesta si fermò, Dorothy uscì dalla sua casa e si ritrovò in un luogo sconosciuto. Gli abitanti erano molto piccoli e tutti indossavano abiti molto colorati. Dorothy li osservava felicemente. Tutti quanti guardavano la piccola Dorothy. Ma dove mi trovo? Questo, vedi, è il paese dei Munchkins. Benvenuta! Hai ucciso la strega! Disse la signora, puntando il dito verso la casa di Dorothy. Dorothy vide una signora sepolta sotto la sua casa. Dorothy poteva vedere solo le gambe che sporgevano sotto la casa. Si sentì triste e scioccata. «Oh!» disse Dorothy. «Oh! Mi spiace! Io non volevo!» «Non devi dispiacerti. Era una strega cattiva e tu finalmente ci hai liberato.» «Una strega?» «Sì! Era la perfida strega dell'Est.» «Oh! Ma nessuno dovrebbe uccidere nessuno! Non è una cosa buona!» «Hai ragione! Ma la strega non era una brava persona per tutti noi!» «Signor Sindaco, ha ucciso la strega dell'Est!» «Molte grazie, piccola!» Il sindaco di Munchkins offrì a Dorothy le scarpe magiche della strega. «Indossali! Sono scarpe magiche!» Dorothy le indossò e le calzarono a pennello. «Grazie, signor sindaco, ma io non sono di questa città. Voglio tornare al mio paese, la città del Kansas.» «Non posso aiutarti a tornare nella tua città, ma il mago di Oz ci riuscirà.» «Il mago di Oz?» «Sì, il mago aiuta veramente tutti.» «E dove vive? Come posso raggiungerlo?» «Vedi quella strada di mattoni gialli? Basta seguirla, ti condurrà alla città di Smeraldo, dove vive il grande mago di Oz.» Ciao, ciao. Dorothy lasciò la città di Munchkins e iniziò a camminare lungo la strada di mattoni gialli. Dopo aver camminato per un po', mentre Dorothy passava da alcuni campi, sentì qualcuno che la salutava. «Ciao!» «Eh? Uno spaventapasseri! E tu parli?» «Sì! Io posso fare molte cose, ma non ho un cervello. Così mi hanno messo in un campo per spaventare i corvi. Ma i corvi hanno il cervello. Sono più intelligenti di me. Desidero tanto avere un cervello.» «Vorrei tanto poterti aiutare. E io vado dal mago di Oz. Lui aiuta tutti.» «Posso venire con te?» «Certo che puoi, andiamo!» Lo spaventapasseri si unì a Dorothy e Toto. Proseguirono lungo una strada lastricata di mattoni gialli. Dopo aver camminato per una certa distanza, videro un uomo di latta. Dorothy, Toto e lo spaventapasseri furono sorpresi nel vedere un uomo di latta. Tutti ebbero un po' di paura quando l'uomo di latta iniziò a camminare verso di loro. «Non abbiate paura! Sono un uomo di latta! Io non vi farò del male!» «Oh, grazie!» «Dove state andando?» «Andiamo dal grande mago di Oz. Lui ci deve aiutare.» «Il mago aiuterà anche me? Purtroppo io non ho un cuore e desidero averne uno.» «Lui aiuta tutti. Il mago ti aiuterà certamente.» L'uomo di latta felicemente li seguì. Tutti iniziarono il loro viaggio verso la città di Smeraldo. Dopo aver camminato per due giorni, entrarono in una giungla. Iniziarono a camminare con molta cautela. Dopo aver camminato per una certa distanza nella giungla, un leone uscì da un enorme cespuglio e attaccò Toto. Toto si spaventò. Oh. hai paura? Sei un leone! Sì, sono un leone, ma non ho alcun coraggio! Oh, povero leone! Un leone senza coraggio è come un povero cane! Sì, mi aiuti per favore, ho bisogno di un po' di coraggio! Dorothy gli disse che erano diretti nella città del Mago di Oz. Chiese al leone di unirsi a loro, con la speranza che il Mago di Oz lo avrebbe aiutato. Dopo aver camminato lungo la strada di mattoni gialli per tanto, tanto tempo, finalmente raggiunsero il cancello della città di Smeraldo e tutti furono meravigliati dalla bellezza di quel regno. Dorothy si avvicinò e bussò alla porta della città. Una guardia aprì il cancello e li accolse. Benvenuti! Il Mago di Oz è felice di incontrarvi! La guardia li condusse al cospetto del Mago di Oz. La piccola Dorothy gli spiegò tutto e gli disse anche quello che i suoi amici desideravano. Il Mago di Oz pensò per un po' e disse: «Io realizzerò tutti i tuoi desideri, ma tu devi fare qualcosa per me prima che io li esaudisca!» «Cosa dobbiamo fare?» «Lo so che tu hai ucciso la strega dell'Est. Voglio che tu anche uccida la strega dell'Ovest.» «È stato un incidente. Non l'ho uccisa.» «Lo so, ma questa volta tu dovrai uccidere la malefica strega dell'Ovest.» «Posso farlo? E come farò?» «Certo che puoi. Tu ci riuscirai. Ora andate e uccidete la strega dell'Ovest. Solo allora io esaudirò tutti i vostri desideri.» «Va bene, ma come posso trovarla?» «Lei ti troverà. Devi solo seguire il sole e andare verso l'occidente.» Il mago le disse qualcosa nell'orecchio. Dorothy e i suoi amici si incamminarono verso ovest. Non avevano alcun piano per combattere e uccidere la strega dell'ovest, ma per realizzare i loro desideri accettarono la sfida. La strega dell'ovest aveva un binocolo magico. Riusciva a guardare le cose da una lunga distanza grazie ad esso. La malvagia strega vide Dorothy e i suoi amici che si avvicinavano. «Ah, quella mocciosa indossa le scarpe magiche della strega dell'Est! Se prendo quelle scarpe magiche diventerò la strega più potente e poi potrò dominare l'intero regno!» La strega chiamò la sua squadra di lupi e gli ordinò di uccidere Dorothy e i suoi amici. I lupi attaccarono Dorothy e i suoi amici. Vedendo che i lupi venivano verso di loro, tutti si spaventarono, tranne l'uomo di latta. Prese la sua ascia e uccise tutti i lupi. Tutti lo ringraziarono per il suo gran coraggio. La strega dell'Ovest si arrabbiò. Allora mandò contro di loro i suoi corvi per attaccarli. Mentre lo spaventapasseri guardava i corvi, disse: «A loro ci penserò io!» Lo spaventapasseri li scacciò e per finire uccise tutti i corvi. La strega dell'Ovest si arrabbiò, poiché non riuscì a uccidere Dorothy e i suoi amici. Furiosa, chiamò a sé tutta la sua squadra di scimmie volanti. «Andate, portateli davanti a me! Li voglio come miei schiavi!» Le scimmie volanti presero Dorothy e i suoi amici. Li catturarono rapidamente. Li legarono e li portarono dinanzi alla strega dell'Ovest. La strega dell'Ovest era molto felice di vederli. «Dammi quelle scarpe, piccola bambina.» «No, sono mie. Il sindaco me le ha regalate.» «Tu non sai come usare la loro magia.» «Io sì.» «Dammeli, forza, muoviti!» «No, non lo farò!» «Ucciderò il tuo amico, il leone, se non me li darai!» «No, non puoi ucciderlo! Lui può diventare il tuo animale domestico!» «Oh, sei una ragazza intelligente, va bene! Non mi dai le tue scarpe e quindi vieni con me, ti darò qualcosa da mangiare!» La strega dell'Ovest portò Dorothy nella sua cucina. Ma prima che potessero entrare in cucina, la strega, con il suo potere magico, fece apparire dell'acqua sul pavimento. Dorothy non si accorse di nulla. «Vieni, Dorothy! Mangiamo qualche delizia!» Mentre Dorothy camminava sul pavimento bagnato, scivolò e una delle sue scarpe fu uscì dal piede. La strega l'afferrò e la prese con sé. Ora dammi anche l'altra scarpa. No! Io non te la consegnerò! Dalla a me oppure ucciderò tutti i tuoi amici! In quel momento Dorothy ricordò il suggerimento del mago. Maledetta, l'acqua è il mio punto debole! Io mi scioglierò e morirò! Qualcuno mi salvi! Dorothy, cosa è successo alla strega? È scomparsa! E noi siamo liberi! Tutti furono felici della vittoria e tornarono dal mago di Oz. Dorothy gli raccontò della strega dell'Ovest. Il mago di Oz fu contento della notizia. Egli esaudì il desiderio di tutti. Diede allo spaventapasseri un cervello, all'uomo di latto un cuore e il coraggio al leone. Un attimo, non hai esaudito il mio desiderio! Voglio tornare alla città del Kansas! Dorothy, tu hai le scarpe magiche! Basta toccare i tacchi per 3 volte e il tuo desiderio sarà realizzato! Lo spaventapasseri, l'uomo di latte e il leone erano tristi nel sapere che Dorothy non avrebbe mai più avuto la loro compagnia. Anche Dorothy era molto triste di lasciarli. Prese Toto in braccio, batté le scarpe 3 volte e in poco tempo ritornò a casa sua a Kansas City. I suoi genitori erano molto contenti di rivederla. Oh, Dorothy! Ma dimmi, dove sei stata? Sono andata nel paese dei Munchkins e poi mi sono recata nella città di Smeraldo e lì ho ucciso la malvagia strega dell'Est e quella dell'Ovest. Oh, la mia coraggiosa ragazza! E come hai fatto? Lavoro di squadra, mamma. Ho imparato una lezione, che con un buon lavoro di squadra puoi avere successo in tutto.